12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Bentrovati, io sono Giovanna e vi do il benvenuto a 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Con la puntata di oggi incominciamo ad esplorare il mondo del lavoro all'estero. Dopo aver cercato di capire in questi mesi cosa sta accadendo nel nostro territorio e quali sono le opportunità professionali in Veneto e in Italia per un giovane in cerca di lavoro, iniziamo a guardare oltre confine. In questo momento in cui si sa la situazione economica italiana è in difficoltà, molti giovani guardano all'estero con la speranza di trovare maggiori opportunità lavorative, ma a volte non è così facile capire come muoversi, a chi rivolgersi e come trovare i canali giusti. Oggi proveremo a capire come funzionano le cose dall'altra parte dell'oceano e in particolare in Canada. Lo faremo insieme a Sara Tognon, esperta di mobilità internazionale, e nella seconda parte della puntata avremo con noi Claudia, che il lavoro in Canada l'ha trovato e che ci racconterà la sua esperienza. Prima di dare il benvenuto alla nostra prima ospite, vi do alcuni dati sull'andamento del mercato del lavoro canadese, in modo da farsi già un quadro generale di quale sia la situazione in questo paese. Il tasso di disoccupazione canadese nel 2012 si è attestato al 7,3% e, nonostante questo valore sia molto inferiore, ad esempio rispetto a quello italiano che si avvicina all'11%, in Canada vi è una grande richiesta di personale qualificato. I settori in espansione che impiegano la maggior parte del personale sono quello petrolifero, e quindi sono ricercate figure come ingegneri, autisti, manodopera specializzata, tecnici, e il settore del turismo, alla ricerca di personale qualificato all'interno di strutture ricettive, impianti sciistici, ristorazione, parchi tematici per le stagioni estive ed invernali. Vi sono poi altre specifiche professioni qualificate ricercate, come ad esempio dentisti, medici ed addetti alle vendite. 12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. Dopo aver dato qualche informazione generale sul mercato del lavoro in Canada, andiamo a capire più nello specifico come funziona insieme alla nostra ospite Sara Tognon, esperta di mobilità internazionale. Ciao Sara, benvenuta a 12 minuti. Ciao a tutti. Sara, di cosa ti occupi e che cosa si intende quindi esattamente con il termine mobilità internazionale? Allora, io lavoro per l'associazione Lunaria dal 2007 e mi occupo appunto di programmi di mobilità internazionale, dove per mobilità internazionale intendiamo qualsiasi azione che un giovane, perché questo normalmente è il nostro target, voglia intraprendere all'estero per studiare, lavorare, fare un tirocinio, un programma di scambio, un programma di volontariato. E nell'ultimo periodo stiamo cercando di dare un focus sul tema del lavoro, dato che è un tema un po' appunto abbastanza problematico, e quindi di approfondire alcuni paesi, di dare delle dritte per chi volesse emigrare. Quindi assolutamente in linea anche con il nostro programma. Sara, la puntata di oggi è dedicata al mondo del lavoro in Canada, ma prima di tutto, nel momento in cui un giovane decide di provare a trovare lavoro all'estero, che sia in Canada o anche in un altro paese, quali sono le cose che deve tenere a mente e quali sono gli aspetti da valutare? Allora, sicuramente ci sono, direi, tre aspetti che è importantissimo autovalutare e capire appunto se è in possesso, che sono quello linguistico, che è un aspetto fondamentale, quindi capire che tipo di livello di conoscenza ho della lingua del paese in cui mi sto recando, i requisiti professionali, questo diciamo vale in linea generale, se ho una professione specifica e ben definita faccio meno fatica a trovare lavoro, questo in Italia e anche all'estero. E poi c'è un aspetto di tipo caratteriale che riguarda un po' l'autonomia della persona, la motivazione e la capacità di adattamento poi a trasferirsi in un altro paese. Certo. Sara, ora venendo al nostro paese specifico, il Canada, quali sono i canali percorribili per poter entrare a lavorare in Canada? Allora, in Canada abbiamo principalmente tre tipi di visto lavorativo che ci permettono di accedere al paese. Il primo è il visto Working Holidays, che è praticamente una vacanza lavoro, ed è un'intesa tra il governo italiano e il governo canadese che permette ai cittadini italiani tra i 18 e i 35 anni di recarsi in questo paese per un periodo limitato di 6 mesi per viaggiare e lavorare. Il secondo è il visto di permesso di lavoro vero e proprio, che però è sempre a tempo determinato, che diciamo dura normalmente tra i 2 e i 4 anni, ed è sì, richiederlo è un po' più complesso perché ci vuole sempre una chiamata da parte del datore di lavoro canadese, la dimostrazione che il nostro profilo è specifico per quel ruolo e che in Canada non si trova personale che lo possa ricoprire. Poi la procedura è sempre passata al vaglio del governo, che valuta la nostra esperienza professionale, il curriculum formativo, i requisiti linguistici, quindi diciamo è una procedura un po' macchinosa e burocratica. Questo permesso è sempre legato ad un datore di lavoro, mentre il terzo, che in realtà non è un canale di accesso ma si può ottenere dopo aver soggiornato in Canada per almeno 2 anni, è la richiesta del visto di residenza, quindi il fatto che ci si può slegare dal datore di lavoro e cercare lavoro poi liberamente in Canada perché si è quasi parificati ad un cittadino, però ovviamente per richiederlo i requisiti sono molto rigidi e bisogna appunto aver già lavorato lì, quindi diciamo che è un terzo modo un po' più complicato. Certo. Sara, secondo te quale, anche se in realtà un po' l'hai già detto, quale di questi tre tipi di permessi è il più accessibile per un giovane alla prima esperienza di ricerca di lavoro all'estero e perché? Ok, allora sicuramente il più accessibile è il primo che ho detto, quindi il Working Holiday Visa, è accessibile perché ovviamente non richiede dei requisiti professionali, richiede solamente ovviamente dei requisiti di età, per cui essere compreso tra i 18 e i 35 anni, e questo visto, come ho detto prima, dura 6 mesi e quello che si può fare in questi 6 mesi è impegnarsi in diverse attività senza necessariamente avere un'esperienza professionale pregressa, per cui si può fare un lavoro stagionale, un lavoro temporaneo, un settore certo, turistico. Quindi sicuramente ecco, per un giovane alle prime armi, diciamo così, è quello insomma più a portata di mano. Ah, sicuramente sì. Sara, grazie per essere stata qui con noi e per le dritte che ci hai dato. Grazie a voi. E ora ci fermiamo per un breve intervallo musicale, poi rientriamo in studio per continuare la nostra scoperta del mondo del lavoro in Canada. Hello, hello, good day, so charming to meet you. But before for the formalities that are so see-through, may I kindly ask you, sign and what your story falls on? To get to bed, to take a walk, could maybe go wrong. Is your rabbit stayed alive with my moon? Or will the planet shift to trigger snoo-snoo? All the sides regressing, the flawless house shut. There's no point progressing if there's no need to start. Don't you wanna know, don't you wanna know? Don't you wanna know, don't you wanna know? Is your retrogress to pull away from what I value? I have standards that expect your heart to always be true. We must see the incongruities before we get far. I don't even know your name, but I see exactly who you are. Is your rising sun aligned with my moon? Or will our planet shift to trigger us too soon? All the tides regressing, my flawless house short. But there's no point progressing if there's no need to start. Hello, hello, good day, so charming to meet you. But before for the formalities that also see through, May I kindly ask a sign of what your star here falls on? To get a better take on what could maybe go wrong. 12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. Bentornati a 12 minuti, stiamo parlando di lavoro all'estero e più precisamente delle possibilità lavorative in Canada. Nella prima parte della puntata abbiamo raccolto un po' di dati sul mercato del lavoro canadese e con Sara Tognon, esperta di mobilità internazionale, abbiamo capito come funziona il meccanismo d'accesso al lavoro appunto a livello burocratico in Canada. Ora diamo il benvenuto alla nostra seconda ospite che l'esperienza di trovare lavoro in Canada l'ha fatta di persona. Claudia, benvenuta a 12 minuti. Ciao. Claudia, chi sei? Che cosa fai nella vita? Allora, io lavoro in Canada, a Calgary, per una società di import-export di prodotti italiani. Ok, Claudia, come sei arrivata per la prima volta in Canada? La prima volta che sono andata in Canada è stato tramite uno stage. Ho fatto delle ricerche dopo la laurea alle Camere di Commercio Italiane all'estero. E mi hanno contattata dalla Camera di Commercio a Calgary, quindi ho iniziato con uno stage presso di loro per 4 mesi. Ecco, com'è stata l'esperienza di stage? Per quanto mi riguarda è stata molto formativa, sia dal punto di vista personale che professionale, nel senso che è stata la prima esperienza all'estero per me, e Calgary è una città che offre tantissimo, quindi mi sono trovata molto bene. E a livello professionale diciamo che sono venuta a contatto con un mondo diverso. Ecco Claudia, proprio a proposito del mondo professionale, dallo stage poi al lavoro, com'è avvenuto il passaggio? Sono venuta in contatto con alcuni membri della Camera di Commercio, in particolare appunto queste persone che hanno questa società di import-export lì a Calgary, che mi hanno offerto di lavorare per loro una volta terminato lo stage. Ecco, sei rimasta direttamente in Canada? No, sono tornata in Italia anche perché per lavorare in Canada è necessario avere un permesso di lavoro. Nessuno ti assume a lavorare in nero, quindi sono tornata in Italia e loro hanno avviato le pratiche per il mio permesso di lavoro. E quindi una volta ottenuto poi appunto sei potuta ritornare in Canada. Esatto, la cosa che mi ha agevolato molto nell'averlo è stato che essendo una società che importa prodotti italiani, quindi richiedevano la conoscenza dell'inglese ma anche della lingua italiana. E quindi sicuramente con la tua italianità quindi, esatto, è stata sì. Un punto forte. Esatto. Ecco Claudia, che consigli daresti ad un giovane che volesse provare a trovare lavoro in Canada? Allora, secondo me il Canada oggi è uno stato che offre tantissimo, è molto aperto ai giovani, dà molte opportunità e in particolare per l'esperienza che ho avuto io consiglierei di andare a provare dalla parte occidentale del Canada, quindi Calgary, la provincia dell'Alberta o Vancouver, che per quello che io ho visto sono mercati completamente nuovi. Però io consiglierei, diciamo, per chi volesse provare, di andare quantomeno a provare a fare uno stage. Ci sono moltissime strutture che ti danno questa possibilità, perché poi appunto ti può dare molte opportunità future, diciamo, se riesci a trovare forse, il modo di... Forse vale anche la pena fare magari un'esperienza prima di questo tipo per rendersi conto anche poi di quella che è la realtà lì. Esatto, sì. Anche semplicemente una vacanza, una lunga vacanza, diciamo di qualche mese, e secondo me può aiutare a capire insomma com'è vivere là, perché comunque è un mondo completamente diverso. Certo. Claudia, domandona, Canada o Italia? Canada. Claudia, grazie per essere stata qui con noi e in bocca al lupo per il tuo lavoro. Grazie mille. 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Nel corso della puntata abbiamo capito insieme a Sara che le modalità per accedere al lavoro in Canada possono essere diverse, ma che per entrare in Canada a qualsiasi titolo, anche come turista, è necessario soddisfare alcuni requisiti, come ad esempio essere in possesso di un visto oppure di una lettera d'invito da parte di qualcuno che vive in Canada, dimostrare di essere in possesso di fondi sufficienti ed altri aspetti. Maggiori dettagli sui requisiti potete trovarli all'indirizzo Canada international.gc.ca/italy-italie. Per informazioni sulla vita sociale in Canada, l'assicurazione sanitaria, la ricerca di lavoro e di formazione, potete visitare anche il sito www.servicecanada.gc.ca/eng/home.shtml. Nel sito dell'Informa Giovani, veneziagiovane.info, potete trovare un approfondimento che raccoglie tutte le informazioni che abbiamo dato durante la puntata e molto altro sulla possibilità di lavorare in Canada. Il documento è scaricabile nella sezione Europa Mondo alla voce Lavoro all'estero. Infine vi segnalo che mercoledì 16 gennaio a Vicenza si terrà l'incontro intitolato Destinazione USA e Canada, organizzato da Eurocultura di Vicenza. La conferenza è ad ingresso gratuito a partire dalle 20:30 presso la sala conferenze Chiostri di Santa Corona, contra Santa Corona numero 4. È richiesta la registrazione all'indirizzo mail cercando il lavoro @comune.vicenza.it. Per info si può consultare anche il sito di Eurocultura www.eurocultura.it. La puntata di oggi è giunta al termine. Prima di salutarvi, anticipazione sulla prossima, che sarà dedicata alla possibilità di lavorare all'estero come docente di lingua italiana per stranieri. Per oggi è tutto, ci sentiamo la prossima settimana. Bye bye! 12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia.